tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Ben trovate e ben trovati. Radio Wombat prende le redini del Ponte Radio questa settimana e, come sempre, il nostro spottino è ancora sbagliato, dice ancora quattro radio, invece quattro radio non sono, sono sette, ci siamo moltiplicate. E Radio Wombat oggi, Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Blackout, Radio Eustachio e Radio Neanderthal, Radio Spore, l'ho dette tutte, madonna. Difficoltà. Oggi siamo in un magnifico trio, direi, per appunto raccontarvi del Ponte Radio di oggi. Siamo su Radio Wombat, come dicevamo all'inizio, quindi siamo in Toscana, in particolare a Firenze, per chi non sapesse. Radio Wombat, radio fiorentina, e abbiamo deciso di parlare oggi, visto che il tema è libero questo mese del Ponte Radio, vi abbiamo deciso di parlare di Sollicciano, quindi carcere, ma in particolare su Sollicciano. Perché? Perché è il carcere più grande che abbiamo a Firenze e uno dei più grandi della Toscana, e anche però perché c'è una ricorrenza, per quel che vale, perché un anno fa preciso, luglio del 2024, c'è stata una rivolta, una grossa rivolta che ha coinvolto i detenuti all'interno di Sollicciano, rivolta di cui abbiamo parlato in quei giorni. Potete trovare degli approfondimenti sulla trasmissione Radio Wombat Stampa Rassegnata, che va in onda tutti i martedì su Radio Wombat, ma viene anche ritrasmessa il lunedì su Radio Onda Rossa. E lì c'è stato modo di raccontare un po' quello che succedeva attraverso la lente distorta, come sappiamo, dei giornali, ma anche attraverso, per esempio, le parole di Altro Diritto, di Sara, di una persona che fa parte di Altro Diritto, che è un'associazione, la citeremo anche durante questa puntata, una persona che si occupa di carcere, che lavora, insomma, Altro Diritto è un'associazione che fa un grosso, importante lavoro dentro il carcere, ma lo vedremo meglio dopo. Quindi partiamo da qua, e partiamo anche, direi, dalle tristi notizie di oggi, perché in realtà avremmo voluto parlare non soltanto di Sollicciano, veramente, perché le cronache locali sono state nelle ultime settimane anche attraversate da le cronache di un altro carcere, che è quello della Dogaia a Prato. Si è dato conto sui giornali di un'inchiesta, una grossa inchiesta che è partita riguardo a delle violenze molto pesanti, molto gravi e diffuse all'interno del carcere della Dogaia, e di una serie di atti di corruzione, un dilagante sistema di coinvolgimento, corruzione, nello spaccio e quant'altro. Sì, un'inchiesta molto larga che un po' fa il filo con quello che sta succedendo a Prato. Comunque sia, ora non è il tema di oggi, però con le indagini alla sindaca attuale del comune di Prato, e sì, una situazione appunto che non è il focus di oggi, però è centrale, perché comunque sia il carcere di Prato è il carcere più grande della Toscana, cosa che peraltro appunto abbiamo appurato anche noi, sì, effettivamente, studiando la puntata di oggi. Non sapevo. E sì, questo più o meno è quanto. Sì, tra l'altro appunto è, come dire, non abbiamo voluto parlare troppo della Dogaia, un po' perché, come tutti i carceri, se ne sa poco, e noi confessiamo che la nostra ignoranza in materia, nel senso che se su Sollicciano siamo riusciti abbastanza a farci un'idea, ecco, negli anni sulla Dogaia siamo più impreparati, però io credo di poter dire che ci riserviamo in futuro di invece fare un focus specifico. Quello che è successo oggi alla Dogaia è che è un'ennesima morte, come spesso si dice quando parliamo di carcere, si parla di morti in maniera del tutto ambigua. Sì, e si parla di gialli. Fumosa, sì, infatti. Quando spesso le verità sono abbastanza ovvie. Però insomma sa di fatto che per quello che riguarda la notizia di oggi, una persona di 58 anni è stata trovata in cella. morta, e ancora non è stato dichiarato se si tratti di un suicidio o di un altro, ci sia stata un'altra causa. Pare per ora stanno abbastanza, addirittura già da subito, dicendo che non si tratta di suicidio, sì, senza chiaramente nessuna opinione definitiva, però pare che si possa scartare già da adesso, perché insomma non pare proprio la dinamica. Così, e se lo dicono già da subito, come dire, già incredibile, visto che normalmente se no sono tutti suicidi o overdose. E tra l'altro si tratta di una persona che era stata coinvolta nella rivolta che c'è stata al carcere della Dogaia qualche settimana fa. Anche qui era un'altra cosa che ci aveva spinto a parlare di carcere oggi. Ecco, persona che era dentro in isolamento, ovviamente isolamento punitivo, esatto, dopo la rivolta palesemente, e niente, adesso è stata trovata morta. Questo è quello che riguarda la Dogaia, e ora passiamo invece a Sollicciano, ma prima volevamo fare un po' un intro, anche per non fare solo una lunga carrellata di tristezze, che chiaramente preparatevi, perché sarà così, ovviamente quando parliamo di carcere non c'è veramente nessun appiglio per poter parlare di cose piacevoli e edificanti, quindi sarà una puntata tendenzialmente deprimente, però ci piaceva fare una piccola introduzione storica che contestualizzasse anche il carcere all'interno della nostra città e come è stato, perché come si è modificato anche nei secoli il ruolo che ha avuto da un punto di vista sociale, urbanistico, e certe scelte che sono state fatte. Il carcere attuale di Firenze, di cui vi parliamo appunto in particolare oggi, è Sollicciano, lo diremo, un carcere di concezione tra virgolette più moderna, degli anni 80, ma appunto degli anni 80 prima c'erano altri carceri dislocati in quartieri diversi, perché la città era diversa. La città aveva dei luoghi popolari nel centro storico, i quartieri popolari tipici, anche quelli definiti turbolenti e degradati si direbbe oggi, erano nel centro storico. Adesso chiaramente, come sapete, la prospettiva è completamente ribaltata, il centro storico di Firenze è sostanzialmente una bomboniera turistica per persone ricche e ricchissime, i poveri sono stati tendenzialmente espulsi quasi tutti. Quindi è un po' l'opposto di come era prima. E secondo me questa cosa che hai detto, forse magari banale, però è una constatazione, cioè la presa del centro da parte dei ricchi è frutto di un progetto, come l'allontanamento del carcere dal centro negli anni 80 seguiva questo stesso progetto, quindi di questo triste vedo non vedo con cui si progettano le città. Sì, che poi in realtà poi ovviamente ci sono un sacco di sacche, cioè il centro è tornato sicuramente nella, diciamo, in possesso già da un certo punto in poi della storia nelle mani della, diciamo, chiamiamoli appunto della fascia ricca, ma in realtà che poi in realtà non ci vive, che chiaramente l'affitta, perché poi c'è tutto il discorso sul turismo, sulla gentrificazione, e in realtà ci vivono proprio fondamentalmente spesso anche invece tutti la schiavitù, perché davvero non c'ha quasi altro nome che invece rende questi servizi turistici possibili. Questo è stato scoperto anche tramite esperienze personali di occupazione in centro, di sondaggio, anche durante il Covid, quindi paradossalmente c'è questa doppia spina. In un certo senso più che per i ricchi, di ricchezza, esatto, cioè come ricchezza, un luogo profittevole, esatto, quindi. Che è proprio tipico, è una situazione comune magari a più città, però specificatamente legata alla storia di Firenze, come. E appunto su questo è molto difficile veramente, non solo perché io non ho dono della sintesi, ma anche perché è veramente difficile riuscire a fare un volo, diciamo così, un volo d'uccello sulla storia delle carceri, perché appunto come si diceva, dato che la città di Firenze ha una storia appunto lunga e legata soprattutto alla sua trasformazione urbanistica, così è veramente difficile come dire, riassumere tutti i passaggi, che sono stati veramente molti dal Medioevo in poi, quindi da una concezione di prigione fondamentalmente privata, in cui venivano usate proprio alcune torri della città riadattate a prigioni, e che però poi ed erano già, tra l'altro, non tanto buffamente un sistema economico abbastanza attivo, per cui i prigionieri dovevano pagare, come spesso succedeva anche in altre città, per la propria sussistenza nella prigione, o potevano essere, come dire, liberati pagando, se qualcuno dall'esterno pagava. Quindi si era già instaurato un sistema economico che, in realtà, poi se ci pensiamo, ha dei ritorni e dei riscontri anche nella, paradossalmente, nella contemporaneità. Sì, i costi dello spaccio attuale sono molto alti in carcere, sono questioni note. Esatto, e essendo che allora non c'era uno Stato, diciamo, ma una signoria, addirittura a periodi delle repubbliche, ma insomma, che provvede, quindi nessuno provvedeva al mantenimento ufficialmente, quindi era tutto a carico di chi appunto se ne poteva occupare, se lo poteva pagare, o se non se lo poteva pagare ci rimaneva. Bene, diciamo, dopo questa prima fase, chiamiamola medievale, il primo carcere che si può definire tale nelle concezioni urbanistiche, chiamiamola moderna, quindi in senso di moderno storico, quindi dal 1400 in poi, è Le Stinche, che fu costruito dalla Repubblica nel 1299 già. Bene. Dopodiché i primi prigionieri che lo riempirono furono prigionieri politici. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, Le Stinche, le poche testimonianze che si hanno, perché chiaramente ovviamente non ci sono foto, c'è qualche dipinto che lo raffigura, pochissima roba si riesce a trovare, se mi ricordo bene, sotterraneo, cioè era un carcere abbastanza agghiacciante, nel senso che era scavato sotto la terra, in piano centro storico. Esatto, in piano centro storico, tra via di Ghibellina, via Verdi, via dei Lavatoi e via Isola delle Stinche, appunto, più o meno sul sito di quello che è l'attuale Teatro Verdi, nostro amato. In quel carcere si tenevano, appunto, come dicevo, più che altro prigionieri di guerra e colpevoli di reati politici. Quindi fin dall'inizio le carceri fiorentine hanno avuto spesso una connotazione estremamente di prigionia politica, non è casuale, e lo vedremo ritornare nel tempo. Fondamentalmente le Stinche furono poi diciamo alienate nel 1830, quindi comunque ebbero una storia piuttosto lunga, e dal suolo, insomma, dal luogo dove si trovavano, nasce appunto invece il teatro, appunto quello che oggi è il Teatro Verdi. Quindi è buffa per noi questa. Dopo la chiusura del carcere delle Stinche, la zona penitenziaria si spostò in alcuni isolati più est, nel complesso delle Murate, famoso Le Murate. Dico famoso perché adesso ospita, poi lo diremo, tutto un complesso anche abitativo, frutto di un progetto che è nato negli anni 2000 di recupero. Che scusate, fu dichiarato nel momento di quando ci fu lo shift del carcere, insomma, venne spostato, teoricamente dovevano essere case popolari. Ora, se mai vi capiterà di essere a Firenze, passate dalle Murate e vedrete sicuramente non case popolari, eccola. Cioè l'assegnazione è stata popolare, è stata un'assegnazione inizialmente, però solo una parte, anche lì c'è tutto uno marginale rispetto a tutta l'area. Certo, infatti ora si cita un quadrilatero, appunto, che occupa circa 14.500 metri quadri, quindi molto grande, perché era un complesso religioso. Un isolato di base. Un isolato nato per ospitare l'ordine delle Murate, appunto. La cui genesi ha una storia abbastanza buffa legata a Firenze, ma che la sarebbe lunga raccontare. Ma diciamo, pur rimanendo nella stessa posizione, la struttura ha subito nei secoli un sacco di cambiamenti architettonici, un sacco di ricostruzioni a opera via via delle più influenti famiglie fiorentine, che si susseguivano nel tempo. Dalla seconda metà del 400 e per tutto il 500 il monastero ospita veramente nomi insigni delle famiglie italiane, Forza, Gonzaga, veramente Farnese, eccetera, diventando un importante crocevia culturale. Questo non lo cito a caso, ma perché questo carcere ha nella storia della città, proprio per la sua ubicazione, come si diceva, un'importanza fondamentale proprio per la riconvolgimento anche della vita della popolazione. Sì, ma tra l'altro la cosa che dicevi, ora senza È vero che è un carcere che molto collocato nel tempo, molto lontano, quindi è facile parlare di cose lontane, dipingendole come migliori di quelle di No, ora. Però era un carcere che non era solo carcere, cioè non era un istituto, come dire, un edificio che aveva soltanto quella funzione e visto così come quel simbolo per la cittadinanza. Cioè, comunque faceva parte integrante del tessuto sociale, nel bene e nel male, più nel male che nel bene. Però era un qualcosa che tu sentivi, tra l'altro, magari lo direi anche dopo, e lo diremo. Cioè, essendo nel mezzo della città e nel quartiere, un quartiere molto popolare e molto abitato, cioè, i detenuti e le detenute, no, i detenuti perché era maschile, si parlavano con la gente che passava, cioè te potevi parlare, c'era un contatto continuo perché te ti mettevi sotto le finestre e parlavi e potevi parlare con le persone che stavano dentro e comunque da dentro avevi una percezione di cosa stava succedendo in città, va anche minima, anche solo dal vociare, dalle chiacchiere, cosa che in un carcere tipo quello di Sollicciano, che è completamente spostato dalla città, adesso è impedito completamente, è sì. Sì. completamente isolato. Questa è una storia abbastanza comune anche ad altri, appunto, ad altre storie urbane. Sicuramente il fatto che non fosse nato come carcere, ma che fosse nato inizialmente come appunto comprensorio, appunto, come casa dell'ordine delle murate, aveva già una sua. Rendeva già il contatto con la città e l'interazione col quartiere, che ricordiamo appunto era un quartiere allora ancora popolare, quartiere di, diciamo, di Santa Croce più o meno, ed è insito appunto nella sua storia l'essere radicato profondamente nell'urbanistica e nel contatto con la popolazione. Ovviamente ci vuole un po', nel senso storicamente diversi secoli prima che diventi effettivamente carcere e infatti con la soppressione delle corporazioni religiose ordinate dal governo napoleonico nel 1808 le murate iniziano una progressiva trasformazione favorita anche dalle famose dichiarazioni di inalienabilità decise nell'817 e poi confermate più tardi. Quindi nei primi anni dell'Ottocento il complesso fondamentalmente ospita una caserma, una fabbrica di fuochi d'artificio e un sacco di Bellissimo. altre, sì, perché c'è appunto questa storia variegata e soprattutto differenziata nell'uso proprio degli spazi. Quindi solo così per accennare che nel 1815 vi alloggiano le truppe austro-ungariche di passaggio verso Roma, insomma. Insomma, viene usato. Esatto, viene usato in vari modi finché dopo il 1827 la chiesa viene affittata definitivamente a uno studio, a uno scultore, Lorenzo Bartolini, con conseguenza sconsacrazione. Quindi da quel punto in poi non è più un luogo di culto e appunto prosegue la sua formazione. Quando fu decisa la chiusura del carcere delle Stinche, che abbiamo citato prima, i detenuti furono temporaneamente sistemati in un convento fuori Firenze e intanto si iniziano questi lavori per adattare le murate a carcere, secondo una visione illuminata della folia, chiamiamola illuminata nel senso storico, Per l'epoca. no, proprio, sì, figlia dell'illuminismo, della politica carceraria espressa dalle teorie di Beccaria, che avevano portato alla riforma del codice di Pietro Leopoldo, Che l'architetto. butta via comunque, cioè. Esatto, perché poi c'è tutta la appunto, cioè, c'è tutta la parte, A me diciamo, piace della sempre signoria illuminata dei insistere sul Lorena. fatto che la merda viene sempre da progetto, cioè non è che è Certo, casuale, non è che succede, sì, ah, è successo, avevano proprio cioè proprio, pensato. Sì, è ah, proprio la studiato, firma certo. di. Esatto. E quindi questo architetto Giraldi mette a punto questo progetto innovativo di nuovo, no? Cioè, si parla di, Sì, però perché il per l'epoca concetto di lo era. innovazione non è Ma mai, cioè non è il moderno di ora. No. esatto, e soprattutto paradossalmente, magari davvero era percepito così, volta alla realizzazione di un carcere di tipo ispettivo o panottico, appunto, un modello che necessita di pochi carcerieri per il controllo di molti detenuti. Sì, molta, molto nota quando si parla di carcere, è uno dei modelli che vengono citati più spesso perché è quello. Tra l'altro, l'altro quello che adesso viene usato in molti centri commerciali, che invece è stato invece declassato per i carceri, che non sono più costruiti già dalla metà degli anni 50, esatto, sul principio del panottico, invece all'epoca era talmente all'avanguardia, e questo credo, non so se uno veramente delle prime le murate ad averlo. Sì, quindi per capirci, non grandi bracci lunghi per lungo, dove fondamentalmente ci devono essere molte guardie perché altrimenti è difficile controllare i detenuti, ma un qualcosa di con una torre proprio centrale, sì, più organizzato, più circolarmente, in modo che tu al centro metti le guardie, che a quel punto possono essere poche, e come ci insegna Foucault, cioè non solo le guardie vedono, ma i detenuti sanno che possono essere visti in qualsiasi momento, e questo regolamenta tutta una serie di cose. Esatto, è una struttura guscio dove tra l'altro il controllore ha questa peculiarità, esatto, di poter vedere ma senza non essere visto, e quindi viene meno il contatto. Sì, e quindi era esattamente vengono abbandonati, però sta di fatto che comunque sia, appunto, come dicevi, qua a Firenze si materializza. Il progresso architettonico si è materializzato velocemente, sì. Esatto, infatti per così per andare diciamo verso il Novecento, quindi appunto con questa soluzione appunto del panottico si aveva bisogno appunto di pochi carcerieri per il controllo di molti detenuti. L'istituzione della casa di correzione per maschi, perché si è tra virgolettata a casa di correzione per maschi, si chiama così, venne ufficialmente varata nel 1830. Il Granducato di Lorena, che in quel momento governavano la città, ne affidò i lavori all'architetto Bartolini. L'organizzazione degli spazi prevedeva celle per i detenuti adulti, mentre i minori erano reclusi in un unico ambiente destinato al laboratorio. E va bene, diciamo che invece il femminile si trovava nell'ex monastero di Santa Verdiana, a pochi passi dalle murate, anche quello appunto un ex monastero, adibito anche quello a carcere a metà dell'Ottocento. Poi lo riciteremo più avanti. Sì, tra l'altro l'ex monastero di Santa Verdiana, come abbiamo citato prima per le murate, è stato recuperato recentemente e all'inizio del 2000, e le murate, ed è diventato uno spazio, diciamo, non solo abitativo come citavate, ma anche c'è uno spazio invece di dove si possono fare concerti, uno spazio più sociale, chiaramente affidato a dei privati, questo per carità, però dove si fanno attività culturali, diciamo, per la città, e più è sede di alcune associazioni. Invece per quanto riguarda il carcere di Santa Verdiana, se non sbaglio, è interamente ormai dedicato all'università, alla facoltà di architettura. Sì, già da sia la parte della chiesa, nel senso della cappella della chiesa, che è perché è stato nella facoltà di architettura all'interno della facoltà, da un lato. Il resto, però, poi del resto che sorge sulla vecchia planimetria, è una costruzione anche quella, diciamo, ora non vorrei, moderna. Scusa Olmo, però non vorrei offendere nessun esperto, nessun architetto, però credo che sia più, appunto, più di questo secolo, però si sorge sulla planimetria originale, che è a specchio all'altro lato della strada, dal lato di Sant'Ambrogio. Nei primi decenni del XX secolo il carcere fu luogo di detenzione di molti anarchici, socialisti, tra cui nominerei un certo Malatesta, e antifascisti come Gaetano Salvemini. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sotto la direzione di Mazzarisi, il carcere delle Murate si distinse come sedia detentiva in cui non venivano inflitte torture, contrariamente a quanto accadeva invece a Villa Triste per mano della Banda Carità. Sì, infatti in realtà era una storia abbastanza interessante, perché durante la Resistenza tutte le storie, i racconti che abbiamo riguardano principalmente di torture e anche di, diciamo, carcere temporaneo, perché poi da lì o morivi o morivi di base, o riuscivi a scappare. Riguardano Villa Triste, che era questa villa di questa fatto che stava all'inizio della Bolognese, quindi diciamo in direzione della linea gotica, cioè uscendo da Firenze, andando verso Bologna e in direzione chiaramente della linea gotica. Nel 44 è famosa perché insomma lì venivano portati e torturati tantissimi partigiani e partigiane, alcuni sono morti come fanciullacci, insomma varie storie. E altri ci sono state anche appunto una nota positiva, anche delle evasioni piuttosto evasioni epiche. Con travestimenti epici e... I travestimenti che in realtà un'altra roba per parlare per una volta di cose positive, appunto di nuovo parlando di questa epoca storica di fanciullacci in particolare e di Santa Verdiana, famosa è l'evasione, l'irruzione di fanciullacci con altri partigiani dentro il carcere di Santa Verdiana per far evadere la Toschina, rea di aver fatto un tentato attentato sì. Dinamitardo al caffè Paskowski, noto per essere pieno di fascisti, e niente, e fanciullacci fece questa irruzione epica travestiti da fascisti e nazisti dentro il carcere di Santa Verdiana e riuscì a far evadere 17 detenute politiche. Ma fra l'altro questa è forse la più nota, ma in realtà sono tante le evasioni all'interno di Santa Verdiana, e si dice, i ricordi qui iniziano a essere un po' offuscati dal tempo, chissà quanto è vero e quanto è leggenda, che comunque dentro Santa Verdiana le monache, perché erano le monache che di fatto facevano da secondine, ci fossero alcune monache antifasciste che favorivano molto spesso le evasioni, quindi c'era in realtà un rapporto anche di insomma a volte amichevole, ecco, sì, perlomeno sì, che ti favoriva, cosa che è molto più difficile dentro le murate, anche se anche dentro le murate qualcosa riusciva a succedere. Sì, in quel periodo inevitabilmente il carcere, sì, cioè, si sta parlando dei prima metà del Novecento, sì, comunque sia dagli anni 20 agli anni 50, in cui il carcere ha un connotato politico, come dicevi, enorme, sicuramente in generale a Firenze anche in particolare, proprio perché c'erano dei vertici del fascismo dell'epoca che insistevano su Firenze e che quindi hanno fatto particolarmente schifo in questo senso. Questa tradizione politica del carcere, sì, in un certo senso, continuerà poi anche negli anni 60 e anni 70 con... tanti detenuti, detenute e anche detenute, quindi sì, scusate, in quel periodo sì, era già presente la sezione, la parte femminile legata alla sinistra extraparlamentare, che portò, cioè che fu diciamo protagonista in quegli anni di una rivolta, in particolare a metà degli anni 70, molto importante, che fece molta notizia, dove i detenuti e le detenute salirono sul tetto. Detenute no, ti correggo. Sono detenuti. Sì, ci si stava, okay, infatti piano piano, esatto. Vai. Sì, ah sì. No, scusa. No, no, no, no. E morì una persona appunto durante queste rivolte. La vicenda fu anche seguita da Soccorso Rosso, che fu appunto... non saprei come dire, come potremmo definirlo, un'organizzazione grazie, che appunto seguiva le sorti e le questioni legali, i procedimenti legali dei compagni in carcere di quegli anni, sì, l'episodio di cui parli appunto è legato anche a quel discorso che si faceva prima nel rapporto intersecato e profondamente legato tra la cittadinanza e il sistema carcerario, che appunto sì, si trovava tra le vie e quindi era vivibile e in contatto, in cioè quelli che durante gli anni di piombo, chiaramente la tensione politica se ti riferivi a questo sì, periodo, sì, però immagino di sì, la tensione politica e chiaramente anche il coinvolgimento politico di certe fasce della popolazione, cominciarono a spostare l'attenzione sulle condizioni carcerarie, erano diventate sempre più intollerabili e disumane anche all'interno delle murate, notizie in merito appunto a ingiustizie, abusi, ma soprattutto insomma, metodi di interrogatori, detenzione, cominciano a trapelare fuori dal carcere. Nasce così quello che te, appunto, hai citato, il movimento di Soccorso Rosso, che per fornire assistenza legale, economica e monitorare le condizioni carcerarie dei militanti, spinge chiaramente anche all'attenzione, al dibattito sulla famosa riforma carceraria che tardava ad arrivare, più volte promessa, auspicata, e che faceva crescere la tensione tra i detenuti. Nella notte, appunto, tra il 23 e il 24 febbraio del 74 esplode questa rivolta. A questo momento i prigionieri salgono sul tetto e gli agenti custodia sparano, uccidendo un ventenne, che era quello che stavi citando te. E la tragedia ovviamente porta un'escalation e c'è proprio una rivolta nelle vie intorno al carcere. Sì, che si espande. E che poi coinvolge, insomma, il centro della città, di quelli che venivano definiti i gruppi extraparlamentari. Questa è la descrizione, ma in realtà si tratta ovviamente dei compagni e delle compagne, e di altre, anche della gente del quartiere, banalmente, anche non ingaggiata magari direttamente politicamente. Per tutta la notte ci sono scontri con la polizia, l'intero quartiere Santa Croce viene invaso da lacrimogeni, dal fumo, dai rastrellamenti, e questo probabilmente è anche un po' una... Cioè, come dire, oltre che un episodio storico fondamentale nella storia della politica di questa città, è anche un trend union, un passaggio alla costruzione del nuovo carcere, diciamo è una spinta in direzione, anche se avviene quasi un decennio dopo, però è figlio di quel problema, no? Che per l'istituzione, per lo Stato, per il sistema nasce, cioè il problema del contatto tra l'istituzione carceraria e la popolazione cittadina, che era quello che stavate citando all'inizio. Sì, tra l'altro, appunto, sempre rimanendo su Santa Verdiana e le Murate, appunto, ne abbiamo parlato, Santa Verdiana, oltre alle evasioni che dicevamo, nella fase politica, appunto, degli anni 70, quelli che vengono definiti gli anni di piombo, in questo termine orrendo, ma in quegli anni lì, comunque, anche dopo, in realtà, videro un sacco, veramente tantissime detenute politiche dentro il carcere di Santa Verdiana. Quindi, di fatto, i racconti vissuti in prima persona erano che quel carcere lì, la maggior parte delle detenute erano politiche, era una sezione molto molto ampia. E io ho questo ricordo personale, che però ho scoperto di recente, perché l'avevo sepolto nella mia memoria e poi mi è tornato in mente, e per me è stato piuttosto emozionante, che a un certo punto negli anni 90 sono comparsi dei disegni sui muri di Santa Verdiana, enormi, bellissimi, che al tempo non esisteva, cioè in Italia ancora i murales cosiddetti ce n'erano pochi, a Firenze sicuramente sì. No, cioè non era l'epoca dei writer, e io ricordo di questo grosso edificio che non avevo manco, ero molto piccola, non avevo manco idea di cosa fosse in realtà, e di questi enormi murales con questi disegni, che erano tutti dei disegni un po' onirici, che erano tutte finestre aperte, uccelli che volavano, colombe, cieli, c'era tanta della simbologia tipica del della volontà di libertà, chi si vedeva che aveva bisogno di uscire. E dopo, solo molto dopo, di recente ho scoperto che quello faceva parte di un progetto nato dal basso, di alcune persone, donne, che si sono incaponite, e dopo una grossa lotta con il direttore del carcere, che non ne voleva sapere, con la direzione e il ministero, che assolutamente non ne volevano sapere, perché ricordiamo, appunto, come dicevo prima, all'epoca le detenute molte erano politiche, quindi si dovevano mettere sotto un tappeto e dimenticarci di loro. E ci fu questo progetto nato dal basso di alcune donne che riuscirono a far uscire temporaneamente le detenute per fargli dipingere questi muri esterni della facciata del carcere di Santa Verdiana, e fu un momento, dai racconti che ci hanno fatto, molto molto commovente e molto bello, perché comunque tutto ciò durò delle settimane, chiaramente erano muri grossi, interi, quindi le detenute fu un momento per finalmente uscire fuori, stare in mezzo alle persone e dipingere. Poi purtroppo dovettero tornare dentro, però ecco, per dire che questo avveniva all'interno di un quartiere molto vissuto, molto popolare, davanti c'era un grosso mercato tutti i giorni e c'è tuttora, e questa cosa era molto vissuta dalle persone, cioè chi viveva lì, ma insomma in generale i fiorentini e le fiorentine sapevano di che cosa si trattava, ne avevano davanti gli occhi delle simbologie molto evidenti. Eh sì. No, questo anche per fare un po' il paragone invece con Sollicciano, che è un ammasso di muri grigi che stanno crollando e che sta ai bordi dell'autostrada. Alienato, proprio corpo e non vedi mai la città, e sì, sempre di nuovo il distaccamento tra la popolazione e anche la possibile solidarietà e qualsiasi relazione insomma, possibile tra la popolazione fuori e dentro dal carcere. E non so, sulla la carrellata storica hai ancora cose da aggiungere o boh? Ma più, cioè, sarebbe da parlarne, sì, per esatto, anni. Esatto, okay. Cioè, abbiamo veramente citato qualche episodio giustamente per far capire appunto più che altro l'ubicazione e l'importanza storica di questi, importanza loro malgrado, insomma, di questi carceri. E sicuramente, come si diceva, tutto questo va nella direzione di comunque di creare una zona carceraria esterna appunto al tessuto urbano, ma non è, come dire, ma non è distaccata dal resto della, come dire, dal resto del piano che il sistema ha per la città, cioè non è, certo, non è un episodio isolato, cioè è all'interno di un contesto di una così espansione urbana che punta su queste, chiamiamole periferie, che ora sono relativamente delle periferie ormai, e però insomma, come si diceva anche prima, diciamo che sia più o meno studiato, che sia poi anche in qualche maniera magari in certi tratti incidentale, di fatto poi quello che è successo è che Sollicciano si ritrova appunto all'esterno, fondamentalmente diciamo distante, come molti carceri di quel periodo in generale, della seconda metà del Novecento, proprio per questi discorsi che abbiamo fatto finora. E devo dire l'unica eccezione che rimane a Firenze è il carcere minorile, che invece si trova via Orti Orticellari, che è in una zona, un altro quartiere centrale di Firenze, non questo di cui vi abbiamo parlato ora, quindi non Sant'Ambrogio e Santa Croce, ma è di Laddarno, quello che noi fiorentine chiamiamo di Laddarno, è il quartiere di Santo Spirito, sì, sostanzialmente un piccolissimo carcere minorile in realtà, dove dentro ci stanno pochissimi detenuti, però ecco, questa forse è l'unica eccezione, e tra l'altro buffo perché penso che la maggior parte dei fiorentini manco sappia che esiste quel carcere. Sì, anche perché probabilmente un po' per la sua dimensione, un po' perché quello è anche l'ultimo dei quartieri, anche se poi ha avuto un'escalation anche gigante, velocissima, però è stato anche un po' l'ultimo dei quartieri, chiamiamoli, a gentrificarsi, che ancora si può, insomma, se l'aggettivo popolare si può ancora dire in qualcosa. Uso. Sì, e pratolinanamente in uso. Ma sì, e quindi probabilmente anche per la sua dimensione, per la sua passa un po' inosservato, diciamo, perché è molto piccolo, ci sono molti, non lo so, ora poi non sono, sì, c'è una quindicina, penso, però... sono sicuramente meno di 20 persone, sì, dentro, sì, pochissimo. Beh, meno male, cioè, non che... sì, no, però insomma, di... per dare sempre, visto, sì, che poi magari dopo andremo a dare invece proveremo almeno a dare tutta una serie di quantificazioni su ciò che è il carcere di Firenze, sì, in effetti ci ritroviamo a dire queste robe qua, no? Sì. Sono sì. E allora io direi di fare una piccola pausa e, visto che abbiamo parlato delle murate largamente, vi facciamo ascoltare un piccolo estratto di un'intervista che è stata fatta a Caterina Bueno dentro il carcere delle murate, quando il carcere delle murate ormai era abbandonato come carcere al 2004, e quindi erano in corso i lavori di restauro, ma per tutta la ristrutturazione che poi di cui vi abbiamo parlato, ma al tempo era ancora perché questo restauro è durato penso 20 anni, che se io ho memoria è durato veramente tantissimi anni, e le murate in quel momento erano per larga parte ancora di fatto uguali a come erano prima, quindi completamente fatiscenti, dismesse da pochi anni in realtà, cioè quindi ancora i detenuti erano stati portati via non da tanto tempo, e il carcere ci si poteva finalmente entrare, e tante persone entrarono per la prima volta in carcere e videro da dentro, dall'interno, che cos'era il carcere, vedendo finalmente, avendo finalmente accesso a quelli che prima erano dei luoghi proibiti in qualche maniera, e quindi vedendo tutte le tracce sui muri e anche la devastazione che è il carcere. E quindi questa intervista a Caterina Bueno, che, dove lei parla di altro, insomma parla di se stessa, un'intervista autobiografica, però non è un caso che è stata fatta all'interno di quel carcere, e a un certo punto c'è, io vi invito anche a guardarla perché è molto bella, si trova un po' ovunque, è un video che si trova, e a un certo punto lei parla di, fa un, insomma, con me, cioè gli casca l'occhio un attimo, tra l'altro è un'intervista in cui lei sta praticamente con la faccia tetra dall'inizio alla fine, perché è palesemente molto emozionata da stare lì dentro, e a un certo punto parla del carcere delle Murate, e quindi vi facciamo ascoltare questo piccolo estratto di quello che dice lì dentro, e poi a seguire un piccolo pezzo musicale, così stacchiamo un attimo. Guarda il gatto, che come un razzo, è uscito dalla guardiola, eh? Un razzo. È abitato, eh? Hai visto che roba? Io ho visitato solo un braccio, come questo di qui a lì, che era sotto un lucernaio, e tutte le celle ci avevano solo le sbarre. Erano grandi come queste. Con tutte le sbarre, capito? L'unica luce era centrale e passavano continuamente le guardie. Ci stavano 7-8 persone. Lo schifo di vedere che ancora ci stava gente, come queste sbarre verniciate come certi letti da ospedale dopo 80 anni li hanno buttati via, no? E loro con lo sputo ci appiccicavano dei fogli di giornale, con lo sputo, capito? Per riuscire a tappare qualche cosa durante il giorno, e poi reggeva, che reggeva. Voglio dire, non lo so che cosa è, però lì per fare lo spettacolo, il direttore non voleva farlo assolutamente, avevano rimesso a posto nuovissima, una specie di sala teatro, no? Col palco e tutto. Allora, siccome era andato molto bene, alla fine è arrivato il direttore a pavoneggiarsi, noi qui, noi là, noi... Unità abitative, ma come unità abitative? Ma cosa vuoi dirmi? E dice, ma cosa vuol dire unità? Gli altri erano furibondi intorno, perché qui gli saranno fatti un mazzo, e questo si vantava poi, no? Abbiamo fatto qui, abbiamo fatto là. E quello, guarda, erano più salubri di queste, quelli, almeno passava più aria. Però una cosa di schifo. Però le canzoni di carcere, tipo Il Mastro di Volterra, sono state fatte e cantate in carceri come questa, capito? E come dovevano essere nell'Ottocento. Qui c'è riscaldamento, per esempio, relativamente, cioè è una cosa inimmaginabile, ecco, la vita di un sovversivo, fuori e dentro è una cosa allucinante, non ci si immagina più. Io me ne stavo mesto a lavorare, rinchiuso dentro il mastio o di Volterra. Un seondi mi venne a salutare, col lieto volto là a nomi serra. Allegro disse, grazie faranno a te, tutti i giornali parlano, combattano per te. Grazie l'accetterò, e se mi daranno i miei diritti come a un cittadino. Nos innocenti li ho fatti, ho 21 anni, non può morire il marchio dell'assassino. Sette innocenti ci vollero condannare, ma i nostri patimenti chi li ho pensera? Non ebbi l'amicizia od un laguori, e il mio processo nullo o vide sola, dovrò subirne ancora pene e rancori, dalla rabbia ne mordo coperte lenzuola, e nel pensare quanto dovrò soffrire mi sento stianta all'anima lo stesso che morì. Ricordo delle offese a me dirette, nel condannarmi laga all'era vita. Mondo crudele, che desti luce a me, son vittima da genti di rinnegata fe. Vola il pensiero mio sera e mattina, vola in superiore di Santa Croce, via dei pilastri e via o Ghibellina, via Borgo Allegri e Borgo Santa Croce. E addio compagni, e viva la libertà, e questo miei batacchi saluta e se ne va. E addio compagni, e viva la libertà, e questo miei batacchi saluta e se ne va. Ci siamo dimenticati prima di fare un accenno anche a qualcosa che volevamo dire in apertura, invece vi diciamo adesso, ovvero Gattabuia, la trasmissione che da qualche mese ormai è comparsa su Radio Wombat, che stiamo facendo a livello redazionale proprio di Radio Wombat. Si tratta di un contenitore, chiamiamolo così, dove dentro ammassiamo audio anticarcerari, comunque che parlano del carcere, che raccontano il carcere, in qualche modo tengono viva l'attenzione su questo argomento. E è una trasmissione pensata in realtà per l'ascolto dal carcere, quindi è un qualcosa che ci teniamo che continui con una cadenza fissa e insomma il più possibile affidabile. Quindi Gattabuia è in diretta ogni sabato alle 15, dura circa una mezz'oretta, un po' più un po' meno, e la potete ascoltare appunto su Radio Wombat. Chi si trova, si dovesse trovare a Sollicciano, la può ascoltare in onde medie, perché Radio Wombat si dovrebbe poter ascoltare dall'interno di Sollicciano, e in onde medie sulla frequenza 1359. Quindi niente, vi così citiamo anche questo contributo di Radio Wombat un po' più continuativo alla questione carcere. E andiamo avanti, abbiamo parlato fino adesso delle carceri che hanno preceduto in qualche maniera Sollicciano. Adesso entriamo nello specifico della puntata di oggi, vera e propria, perché vi parliamo di Sollicciano, di questa specificità. Che lo vedremo fino a un certo punto è tale, perché in realtà ha molti aspetti assolutamente comuni alle altre carceri italiane, ma insomma anche delle sue particolarità di cui non si può andare orgogliosi assolutamente. Quindi partiamo da Sollicciano e quindi da come è fatto, perché abbiamo detto che si trova, per chi non conosce Firenze, si trova ai margini della città e praticamente su quella che in Toscana chiamiamo la Fippi Lì, che è la strada che collega Firenze, Pisa e Livorno, è una superstrada di fatto. Ecco, ai margini di un quartiere che è un quartiere considerato quello di Sollicciano ancora abbastanza popolare, molto periferico, tendenzialmente abbastanza povero, ma in una parte piuttosto spopolata, nel senso che ha, cosa rara ormai per Firenze, ha dei luoghi molto anche non edificati. Quindi c'è una parte che, guarda un po', è vicino all'autostrada, è vicino alla Fippi Lì, appunto, dove lì viene, cioè è isolato dal resto delle case. Sì, ci sono un po' di case, ma veramente lontane. Non è come, se avete presente, invece Rebibbia, che è proprio dentro il quartiere, ecco, o Regina Coeli. Ecco, no, lì si parla proprio di un allontanamento e lo vedete passando quando arrivate a Firenze, se arrivate dall'autostrada o dalla Fippi Lì, lo vedete perché a un certo punto sulla destra vi apparirà questo edificio orrendo che non potete non pensare, ma cos'è? È un carcere? Sì, è un carcere, è proprio quello che sembra, è un edificio che si vede subito, molto cadente, molto, che letteralmente cade a pezzi, poi vi diremo, non è un'impressione, grigio, un po' frastagliato, ecco, questo è il carcere di Sollicciano. Scusa, non te No, l'avevo no, acceso. niente, niente. Sempre Censura. per quello che riguarda la prospettiva dentro e fuori dal carcere dell'edificio carcere, invece, appunto, è secondo me molto significativo come la sua presenza sia manifesta, cioè il carcere attuale di Sollicciano si trova appunto in una posizione molto visibile perché quella strada comunque si è molto frequentata, Ah, sì. ma ciononostante la sua distanza invece è umana, cioè l'impossibilità di avere un contatto diretto. Sì, tutti lo devono Quindi sapere che c'è, tu ma. sai che è lì, lo vedi, però appunto è un luogo alieno Davvero. e si trova, come dicevi, sì, proprio in quelle zone della città, le cosiddette quartieri funzionali ad espansione, che appunto vengono lasciati un po' scarni, pronti a possibili ampliamenti, espansioni e quant'altro. Boh, io sì, Sì, passerei. era anche una zona storicamente proprio di campi e quindi di terreni coltivati a cui poi la città è arrivata ovviamente mangiandosi, no, gli spazi e espandendosi, e però rimane un po' appunto sempre questa caratteristica che ha permesso anche che il carcere fosse ubicato, immagino, a questa distanza da queste case, poi da questi piccoli che non sono palazzoni, sono delle case, diciamo, di media grande costruzione di qualche piano, non sono palazzoni giganti come magari può essere quelli della zona appunto, di Novoli o delle zone più Abitate, abitate, sì. più densamente abitate. Sono comunque palazzine che però hanno questi campi nel mezzo fino al carcere e che appunto però risalgono un po' a come era proprio all'ubicazione, cioè alla formazione proprio del terreno originale che era appunto di un'economia che puntava all'agricoltura e che poi è cambiata chiaramente ed è stata un po' mangiata dalla città, però rimane appunto questa connotazione. E, diciamo che poi ne parleremo, però diciamo la cosa abbastanza paradossale fin dalla sua nascita, cioè paradossale per noi ovviamente, il carcere è accompagnato da una narrazione mediatica che lo vuole elevare a un modello architettonico illuminato e addirittura oggi la parola del giorno è illuminato, è addirittura definito rivoluzionario, proprio cito le fonti, non Non sono interpreto. parole tue, no? No. Beh, non avevamo dubbi. Si disse allora che si dismettevano appunto le obsolete antigieniche carceri delle murate vecchie e fatiscenti, proponendo quanto ci fosse di più avanzato nel settore, cioè veramente fantoziana come a andar bene, lo va a voler ridere, fantoziana come come retorica, e fu un'operazione inserita in una prospettiva di restauro urbano voluta dall'allora piano regolatore. Quindi è proprio all'interno di, come si diceva, di tutta una direzione che la città stava prendendo. La pianta dell'istituto, noi ci fa appunto sempre molto ridere fuori dai microfoni e altrove, è ispirata al Giglio di Firenze. E vabbè, non si è mai capito bene in che modo questo si ripropone, però c'è questa grande ispirazione Ma è alla. una patetica rivendicazione, cioè, diciamo prima che ora al netto della risata è comunque Sì, si sta parlando di un carcere, quindi chiaro. è mettere oltretutto il cappello su un cioè su una Un'iconografia. C'è sì, esatto, cioè, una tristezza sì, infinita, sta roba. un'iconografia che dovrebbe rispondere al sentimento d'appartenenza della fiorentinità Sì. media. Vorrei sottolineare che è un iris e non un giglio, comunque non lo dirò mai abbastanza. Grazie. Deficienti. Sì, Grazie, comunque è tutto Lorenzo veramente Becci. patetico a dei livelli. Esatto. Vabbè. Quindi, questa che ne schematizza appunto la struttura a fiore, diciamo, con i padiglioni semicircolari, corridoi di collegamento, no, che li uniscono. Il progetto elabora lo schema cosiddetto a palo telegrafico, per capirsi, ritenuto nell'ambito delle tipologie carcerarie il più, in quel momento il più idoneo a generare un asse in grado di favorire le relazioni di interscambio tra le varie attività svolte all'interno. Eh sì, è Nuovo, no? andata proprio così. Esattamente, cioè, beh, tutto questo sforzare e sottolineare questa, no, no, questa faccia umana dell'architettura carceraria e teneva in considerazione, no, un'apertura degli spazi, no, che sottintendeva poi a tutto il dibattito sulla giustizia dalla faccia pulita e la rieducazione. Vabbè, poi si andrebbe appunto in un dibattito strainteressante che magari verrà portato avanti poi su questo. In realtà, appunto, gli edifici così a forma di semicerchio. Convesso, perché c'ha proprio questa struttura che si percepisce anche dall'esterno, sono appunto orientati, diciamo, verso la città. Ora poi loro qui Sì, verso cito l'esterno, verso l'esterno, quantomeno. esatto, che però sono appunto, come si diceva, totalmente distaccati. Cioè, sì, la città si vede in lontananza, si vedono dall'interno, ma ora non sono entrata in una cella, però da altre zone sì, si vede la città, però Sì, non penso è, cioè, si si vede fino vede, a un certo punto, perché tra esatto. l'altro è noto che quando andiamo a fare i presidi sotto il carcere è molto difficile purtroppo che ti sentano e tantomeno che ti possano vedere, quindi bah. Proprio per come è fatto, perché sono disposti appunto a raggiera, in un certo senso, però una raggiera che è storta, che è un'ellisse piegata, per farsi capire, e quindi rende impossibile in realtà la visione, no? Cioè, come da un palazzo normale da cui ai quattro lati puoi vedere verso l'esterno a seconda di quello che ti capita. Qui no, qui c'hai proprio una quindi cioè in barba a questa in Sì, devo realtà. dire, questa è una cosa che a me ha sempre fatto molto effetto perché sembra veramente un esercizio di crudeltà, Sì. cioè non necessaria apparentemente, nel senso che veramente già ti sto togliendo la libertà, anche questa è veramente una finezza che a me ha sempre molto colpito. E sembra quasi, a me ha sempre ricordato anche un pochino i lati degli stadi, no? Sì, è Quasi, sembra quasi vero. uno stadio sportivo. E appunto cioè, diciamo, i dormitori sono disposti in modo da delimitare uno spazio interno, vabbè, dove appunto così chi l'ha costruito, chi l'ha. Poi, insomma, citeremo, insomma, l'ha venduto come uno spazio attrezzato del complesso, si offre in tutta la sua articolazione urbana, costruita da percorsi, piazze interne, impianti sportivi, aree verdi. Sì, c'era, in quegli anni c'era anche nell'urbanistica popolare, in particolare di Firenze, tutto questo tentativo di creare in varie aree delle zone interne, quelle stesse aree dove si sarebbe dovuta svolgere una funzione un po' sociale, come dicevi te, di piazza, i risultati, anche alle piagge questa cosa è stata fatta, i risultati sono stati dappertutto atroci, il carcere non è stato esente, ecco, proprio. è successo la stessa cosa. Esatto. Rispetto a il mi dimentico sempre il nome esatto, il panopticon, quindi con all'interno di questi vuoti la struttura di controllo invece quasi aveva l'ambizione di avere delle aree comuni, posti e luoghi dove si sarebbero dovute svolgere attività, che praticamente non è mai successo a San Lucciano. No, scusa, però qualcosa sì, ma esattamente così, è esattamente così. E addirittura queste zone interne, tra cui un giardino che doveva essere appunto poi dato in mano alla manutenzione nei progetti detenuti, firmato da Michelucci, questo famoso architetto di Firenze storico, l'ha fatte tutte, sì. Tra quella stazione di Firenze e un sacco di altri posti famosi, proprio per così sottolineare di nuovo questa intenzionalità di avere, no, di dimostrare questa grande innovazione, questa grande attenzione, no, all'architettura. Quando ancora si parlava di rieducazione o di funzione riabilitativa, cosa che ormai si è proprio anche rinunciato a mettere nel discorso. Sì. Esatto, per quanto fosse soltanto appunto di facciata, però si cercava di mantenere questa anche per probabilmente per la, come dire, per la situazione politica dell'epoca, certo, cioè sì, che sì, era sì. Ovviamente diversa da quella di oggi, anche se uguale in molti modi ovviamente. La progettazione risale agli anni 70 in realtà ed era caratterizzata sia per la forma, per la sua forma appunto, chiamiamola innovativa, che per l'assenza di grate e sbarre alle finestre. Anche questo altro elemento che dà appunto questo fumo negli occhi di grande, no? Di grande diversità rispetto ai carceri classici, ma che in realtà poi non si esprime in un effettivo attenzione a cosa veramente succede all'interno, ma soltanto a una forma esteriore che sembra più liberata, chiamiamola libera, o neanche, insomma, umana. Ti interrompo, scusa, un secondo, sì. Perché ci dicono che ogni tanto si sentono delle piccole interferenze musicali, okay. Probabilmente se questo succede è perché abbiamo qualche piccolo problema di connessione. Fateci sapere se è ancora così o se invece ci sentite bene, potete dircelo scrivendo sul pad diretta wombat.vado.li, e se ci dite, insomma, se ci si sente bene, siamo contente. Vai, scusa. Esatto, e in niente. In costruzione, diciamo appunto, questa è un po' come nasce appunto questo Moloch. Di fatto negli anni, cioè i lavori poi di costruzione terminano nell'82, viene inaugurato l'anno successivo da tra l'altro un team di architetti piuttosto giovani appunto, e così, anche se diciamo noti ma piuttosto giovane, anche questo di nuovo per dimostrare, no, la modernità del progetto. Successivamente l'89 una parte del complesso viene inaugurata come seconda casa circondariale maschile di Firenze, divenendo il primo istituto a custodia attenuata in Italia. Appunto, come già stato citato, la differenza architettonica fondamentale con i vecchi modelli carcerari, di sicuro con le murate, era la mancanza della struttura panopticon, no? Quindi la differenza che già veniva comunque già dagli anni dall'Olanda e da altri paesi veniva già, per esempio, venivano già fatti carceri senza panopticon già dalla fine degli anni 50, quindi come al solito non è che siamo arrivati per primi. Quindi questo è un po' così generalmente, diciamo, come nasceva questo progetto, ma in realtà molto velocemente, un po' per il passare del tempo, un po' per la problematicità nell'uso di certi materiali, un po' per il veloce sovraffollamento, perché poi, come si diceva, poi come verrà spiegato più avanti, è stato un carcere che fin dal subito ha avuto questa serie questi problemi, e la sua degradazione strutturale, proprio ora si sta parlando di questo, comincia a essere evidente, e questo ricade poi su tutti gli altri aspetti, no? Sulla vita dei detenuti, sulla dignità della così della vita interna di ogni giorno e delle condizioni sanitarie e psicologiche di chi lo abita. Abbiamo cercato di capire molto come mai, cioè da dove derivassero queste problematiche strutturali fisiche proprio dello stabile di Sollicciano, perché effettivamente se ci pensate, sì, è vero che inizia a avere la sua età perché appunto è degli anni 80, però non è così vecchio. I carceri di cui parlavamo prima, le murate e Santa Verdiana, cioè sono durati poi molto di più, in condizioni direi eccellenti. Quindi abbiamo avuto grosse difficoltà a capire, no? E anche questo è abbastanza, ci è sembrato piuttosto emblematico della questione carceraria, di come viene affrontata con leggerezza e poca profondità anche dalla società umana, perché di fatto, siccome è un problema che si tende, c'è cioè un problema, insomma, la questione carcere è un qualcosa che si vuole sempre tenere sotto il tappeto e in ombra e non parlarne mai veramente. Quando poi bisogna parlarne perché magari appunto le questioni vengono troppo a galla, non si possono ignorare, per cui ci sono rivolte, troppi morti, allora bisogna parlarne. Comunque come se ne parla è sempre piuttosto poco approfondito, cioè sui giornali troverete sempre accenni alle questioni strutturali, al fatto che Sollicciano sta cadendo a pezzi. Mai da nessuna parte troverete un accenno al perché, ma di che tipo sono queste problematiche. La muffa, va bene, sappiamo tutti ormai che Sollicciano è piena di infiltrazioni, ma queste infiltrazioni sono strutturali. La muffa c'è perché non viene riscaldato il carcere, perché come sappiamo il riscaldamento funziona una volta su 100 e quindi si aggravano, oppure sono invece dovute al fatto che ci sono dei problemi di costruzione, che è stato costruito con materiali scadenti, con tecniche a basso costo, perché in fondo il carcere è un qualcosa su cui non investire e tanto ci devono stare persone che fondamentalmente di cui non si sa che fare. Le devianze, no? Sì, cioè gli scarti che quindi possono anche stare in uno scatolone. Sì, quindi va bene pure se... Oppure la terza, tutte e due quelle che hai detto. O entrambe, esatto, però è abbastanza, a me ha colpito il fatto che viene data per scontata questa carenza, questo problema strutturale. Si parla al massimo di soluzioni che però, lo vedremo, vabbè, lasciano il tempo che trovano, ma non viene mai indagata la causa, come se fosse una sorta di malattia. Questo è anche un po' un problema tipico di come vengono affrontate un po' tutte le questioni. Si parla sempre di emergenze e non ci si chiede mai da dove arrivano queste emergenze, se sono veramente emergenze o se sono di fatto strutture fisse e volute anche della nostra società. Forse patologie, in un certo senso. Cioè, volute come, però. Sì, no, però con quel carattere appunto che, cioè, la patologia ti rimane se non ci fai niente, cioè, sì. L'inerzia non paga, ecco. Sì. Sì, nonostante appunto queste premesse di eccellenza, il passare del tempo, sicuramente come si diceva, la scarsa manutenzione, il progressivo sovraffollamento, però appunto non bastano forse a spiegare totalmente questo crollo appunto effettivo. E veloce in termini architettonici. Ci sono alcune zone che proprio stanno letteralmente crollando e sono inagibili per questo. E quindi io effettivamente da non esperta e come si diceva è difficile trovare anche probabilmente, e magari ci sono anche teorie diverse dietro che poi sono influenzate da pareri politici piuttosto, e difficilmente si trova appunto, come dire, cronache oneste. No, magari trovi l'architetto che ti dice sì, guarda, questa roba faceva schifo già nell'80 e quindi è difficile che ora sia meglio, però è molto difficile, lo puoi trovare a livello colloquiale o lo puoi trovare se c'è la fortuna di comitati magari che si occupano di questo, però in generale, a prescindere da, è proprio una, al di là di quelle che magari potevano essere anche condizioni di partenza eccellenti, non lo so, davvero onestamente non lo so, però poi col tempo la mancata cura è un sintomo di quello che avete appena detto, cioè la mancata cura della struttura fisica carceraria è un riflesso della mancata cura del problema carcerario, della... Sì, e anche del ruolo che ha quel carcere, esatto, cioè quel carcere, ora non volendo entrare nel filosofico, però è evidente che non ha mai avuto la funzione di risolvere dei problemi della società o di rieducare o di, come dire, anche risolvere dei conflitti esistenti all'interno della nostra società. Questo non è mai stato nelle funzioni di un carcere, questo lo sappiamo perfettamente, inutile anche adesso ribadirselo. Di alcuni ancora meno. No, più che altro non, cioè, dopodiché però un conto è fare questo discorso e un conto è proprio decidere che si costruisce uno scatolone che insalubre, che cade a pezzi, proprio in partenza secondo me, perché in fondo, ora non lo so, anch'io non ho le prove, però... insomma, già dalle foto iniziali di quando è stato inaugurato si capiva. Mi viene in mente il parallelo con l'architettura popolare, delle case popolari che vengono costruite con i materiali di scarto, con... Sì, magari hanno delle architetture avveniristiche da un punto di vista estetico, perché l'architetto del momento deve sfogarsi e deve anche provare, sperimentare, e glielo fanno fa perché tanto gli se ne frega se fa schifo, poi nessuno si dirà niente. L'importante è che ci sia una narrativa abbastanza accattivante, ci ho investito perché guarda come l'ho fatta a forma di stella, tipo, quindi ci ho investito. Però il problema è che nella realtà non si è mai voluto, anche nell'architettura popolare, nell'urbanistica popolare, non si è mai voluto investire su qualcosa che fosse a misura d'uomo o in generale che fosse vivibile per davvero, perché non è nell'interesse e nemmeno di conseguenza, non so se causa o sintomo, forse insomma vanno in parallelo, nemmeno nell'aspetto appunto giuridico di questa gestione, cioè sia come figure preposte e soprattutto figure esecutive in un certo senso, perché magari campanelli d'allarme anche ufficiali ce ne possono essere, come magari vedremo dopo, però la parte appunto di esecuzione, quindi ok, il carcere cade a pezzi, come si fa, che cosa si fa, quella parte là va sempre in genere per ultima o completamente ignorata, cioè. Sì. Io farei un altro breve introduzione musicale, un piccolo pezzettino per riprendere fiato e poi passiamo un po' all'ultima parte, direi, dove vi raccontiamo dell'oggi, di fatto, di come si vive a Sollicciano adesso, di quello che sappiamo, e facciamo anche un po' il punto a un anno di distanza dalle rivolte del luglio del 2024, quindi vi faremo una piccola cronistoria di cosa è successo in quest'anno, di anche partendo da qualche mese prima, quindi che cosa ha portato a quelle rivolte e come invece si vive adesso. Ma non ho messo il pezzo, quindi è difficile che lo possa mandare in onda. Eccolo. يا جرح قلبي الجرح Eccoci, Ponte Radio, Radio Wombat, ma anche sulle altre 7 radio che partecipano a questo progetto di coordinamento, possiamo chiamarlo così, auto-organizzato tra radio. E parlavamo di Sollicciano, se vi siete messi in ascolto adesso, uno speciale sul carcere fiorentino Sollicciano, e parliamo dell'adesso e buttiamo un po' di numeri che danno un po' la dimensione, per quanto siano forse freddi, ma richiamano delle cose invece molto precise di adesso. Quindi i dati che si trovano sul sito del Ministero della Giustizia, che sono aggiornati a luglio, ad adesso, devo dire proprio a ieri, del luglio del 2025, parla di 497 posti regolamentari, ovvero quelli teorici, ma non disponibili 140. Poi vi spiegheremo il perché questi posti non sono disponibili. Quindi, se fate il conto, i posti reali sono 357, i detenuti presenti sono 545 ad oggi. E chiaramente un numero che cambia spessissimo, ma non di tanto, insomma. No, questo flusso qua è abbastanza varia, appunto. Siamo nell'ordine di una variazione di 20 persone tra i detenuti presenti negli ultimi 2 anni, quindi siamo passati al massimo di circa 580 a un minimo di 520, però insomma la questione cambia di veramente poco. Siamo lì, diciamo, sì. E, le stanze di detenzione sono 358, di cui 104 non disponibili, di nuovo, perché appunto prima vi parlavamo di posti non disponibili, ma perché si parlava di altre ale, non soltanto. E quindi le stanze di detenzione sono 254. Ribadisco, detenuti presenti 545. Le docce sono 62, bidè 29. In ogni sezione è presente un locale docce con acqua calda. Questi sono i dati scritti sul Ministero della Giustizia. Non c'è dato sapere se sono aggiornati, ma questo è quello che c'è scritto. In ogni sezione è presente un locale docce con acqua calda. Questo io non so se è vero, ma vabbè. La questione, in un documento analogo fatto dal garante dei detenuti della Toscana, si conferma questa roba, cioè che c'è praticamente un unico punto comune per sezione con acqua calda, che l'acqua calda non arriva nelle celle, ovviamente. Esatto, dove dice che ci dovrebbero essere questi famosi lavori per portarceli. Ma soprattutto il problema principale, che è paradossale, è che viene solo acqua calda. Ah. Quindi non c'è modo di controllarla. Nell'unico punto dove arriva acqua calda non c'è modo di fare vagamente miscelazione, quindi arriva soltanto acqua bollente. Sì, tanto, no? E questo è in un report della USL toscana, che va dentro il carcere e dice: ma non si può, cioè viene solo acqua bollente. Sì. Fantastico. La chiesa e il teatro del reparto femminile attualmente sono inagibili, e poi le stanze del reparto assistiti sono dotate anche di doccia. Poi, per quanto riguarda invece le attività cosiddette ricreative o comunque culturali, anche qui c'erano un po' di numeri da farvi che secondo me vi danno un po' la dimensione, perché parlando con alcune persone che lavoravano, notate il passato, dentro Sollicciano, ci raccontavano come questi progetti li abbiano bruscamente interrotti, mai più rinnovati da anni. Questa cosa l'abbiamo verificata, perché effettivamente anche sul sito del Ministero quello che vedete, che viene dichiarato, sono che i corsi, che erano due fondamentalmente, di orticoltura, sono tutti finiti a maggio del 2024, quindi da un anno e più non ci sono più corsi. Il corso di italiano e il diploma di licenza media sono gli unici, penso, che esistono ancora, e sono però finiti a giugno, perché questa cosa parallela alle scuole, a giugno finisce l'anno, come se le persone non continuassero a stare lì anche durante l'estate, ma vabbè, questo polemica sterile mia. Poi il laboratorio di teatro e il laboratorio musicale che esistevano sono finiti nel 2017, mai più rinnovati. Attività sportive finite anche queste nel 2017. Laboratorio di scrittura creativa finito pure questo sempre nel 2017. Nello stesso anno vengono terminati e mai più riniziati il laboratorio di bambole, che vabbè, la lasciamo perdere, e ma anche le attività religiose, che erano preghiere e culti organizzati, che in realtà erano non soltanto culto della religione cattolica, ma anche altri, islamica, buddista, ce n'erano varie, e anche queste mai più ricominciate da dopo il 2017. Quindi sostanzialmente sono quasi 8 anni che non vengono più fatte attività dentro il carcere di Sollicciano. Questa è così, giusto per... Sì, e io invece prima ci ridevamo perché sono, forse avete capito, interessato e animato dai numeri, però la questione carceraria, almeno in Toscana, presenta un'omogeneità purtroppo per quello che riguarda il sovraffollamento, dove vediamo praticamente in ogni istituto in Toscana percentuali molto alte, camuffate sempre appunto dal numero dichiarato ufficiale dei posti di capienza e poi quello effettivo. Abbiamo introdotto prima appunto questa possibile discrepanza, differenza tra questi due numeri, che principalmente è legata a due questioni. La prima è quella dell'inagibilità di alcune celle, che viene eventualmente constatata dalle ASL territoriali o da promesse e progetti di ristrutturazione, come ad esempio, i più attenti l'avranno capito dal mio accento, quello che riguarda il carcere di Arezzo, che riporta 35 persone dentro l'istituto con una capienza di 108, quindi teoricamente un terzo, ma se uno guarda la capienza effettiva sono 23 i posti. Quindi 37 a 23 anziché 37 a 108. Sì, dimezzano quasi sempre. E questa roba ovviamente è regolare. Il fatto è che appunto la capienza dichiarata è formalmente un numero usabile per le statistiche, mentre quella effettiva è anche oggettivamente difficile da riscontrare in maniera netta, perché dentro il carcere entrare è molto complicato, e quindi avere e gli stessi organi che vanno a fare i controlli, le ASL, non sono ovviamente del tutto neutrali, quindi questo carattere è veramente, almeno in Toscana, è proprio un aspetto palese. No, penso che questo sia un po' ovunque. Tra l'altro, la cosa che a me ha anche molto colpito e colpisce da sempre quando provo a approcciarmi al carcere è la voluta, palesemente voluta, confusione e opacità sulle informazioni pratiche. Ovvero è veramente difficile sapere se te è una persona che vuoi andare a trovare in carcere, per esempio. È molto difficile capire come fare, cosa. Per esempio, un esempio a caso, sul sito sempre del Ministero della Giustizia, che peraltro è uno dei pochi dove vengono dichiarate delle cose, quindi è uno dei pochi posti dove tu puoi provare a trovare delle informazioni, si legge attualmente alla pagina che riguarda Sollicciano e dove ci sono tutte le informazioni pratiche, che le visite con i familiari sono, cioè i colloqui visivi con i detenuti sono sospesi dal 2020, attualmente ancora, per le misure anti-Covid. Ora, non c'è dato sapere se sia vero, nel senso, per saperlo tu devi avere una persona in carcere, oppure devi esserci andato fisicamente a parlare a Sollicciano, a chiedere scusate, ma i colloqui quindi si possono fare, non si possono fare? Da notizie che sappiamo noi, questa cosa non è vera, per esempio, cioè i colloqui vengono fatti attualmente. Sono stati, sì, riaggiornati, sì. Ma sul sito del Ministero non c'è questa informazione. Ora, è molto, come dire, noi tendiamo spesso a fare dell'ironia sul fatto che noi italiani facciamo schifo, le cose non, vabbè, la burocrazia, lo Stato, non funziona niente. Sì, però questa roba qua è volutamente trascurata, è un gradino in più, uno step in più per rendere tutto molto più difficile, molto più faraginoso e anche penoso, perché già tu ti trovi nella condizione di dover avere un familiare, un parente o una persona a te cara in carcere, e quindi con insomma tutto un portato, che, sì, il portato che questo comporta, e in più ogni informazione per provare a in qualche maniera organizzarti ti è difficilissima ed è ti è resa complicatissima. Sì, e tra l'altro c'è da sottolineare che questo va anche inserito in una tradizione di come dire, allontanamento dalla fonte, cioè tu se hai soldi per avere un avvocato, allora l'avvocato che sta sul pezzo, migliore l'avvocato, migliore è le informazioni che te avrai, almeno certo, non so, nell'esperienza è così, e migliori sono le informazioni, l'accesso alle informazioni che tu avrai, quando invece chiaramente è una banalità, ma l'accesso alle informazioni dovrebbe essere appunto orizzontale e non determinato dal tuo grado di potertelo permettere, no? Questo è un ulteriore aspetto della del sistema carcerario, del sistema giudiziario in realtà, perché è di questo che si sta parlando. Il carcere è soltanto l'ultimo gradino d'arrivo di tutto un sistema che parte però a monte, certo, dalla condanna alla tua, alla tua difesa, al potertelo permettere, che appunto è insitamente integrato nel sistema politico, nel sistema di pensiero, e anche accettato quasi in un certo senso, no? A parte da chi ovviamente si attrezza e si cerca di contrapporre, ma è una contrapposizione appunto di Davide contro Golia, perché ovviamente tu sei un piccolo, no? Subisci appunto una situazione familiare piuttosto che personale, piuttosto che, e sei veramente un piccolo elemento all'interno di un mega mostro kafkiano in cui non riesci, sì, a nostre notizie, cioè quello che sappiamo, che abbiamo potuto capire, per quanto riguarda Sollicciano in particolare, il giudiziario pare che sia la parte più grande e problematica. Ci stanno persone non definitive o in misura cautelare, molte delle quali sono migranti. In generale la percentuale di migranti a Sollicciano è molto grande, e un po' come in tutti i carceri d'Italia, ma Sollicciano c'è uno dei numeri più alti d'Italia. Considerate che appunto attualmente su 545 detenuti, circa 300, più di 300 sono stranieri, quindi ecco, insomma quindi una percentuale un'idea, va, sì, molto giovani spesso, e sono persone che quando arrivano sono molto disorientate, e l'organizzazione carceraria a Sollicciano viene riportata da molti che l'ingresso proprio a Sollicciano è particolarmente disorientante, particolarmente lasciato a se stesso, quindi chi entra si trova in una situazione particolarmente, rispetto ad altre carceri, disorientato. Generalmente quello che viene riportato è che chi sta a Sollicciano molto spesso si sta lì perché non è seguito dal CERT, perché magari ha dei problemi di dipendenza non seguiti o non curati adeguatamente, quindi vengono queste persone sbattute a Sollicciano perché non hanno un domicilio idoneo dove fare i domiciliari, quindi spesso magari potrebbero fare pene alternative ma non gli vengono riconosciute perché non hanno modo di avere un domicilio, e quindi non vengono sbattuti a Sollicciano. Altro dato che non vi abbiamo detto, fondamentale, e che insomma ci teniamo a dire soprattutto l'estate, in tante sezioni non c'è acqua. Questo è un dato riportato dai detenuti e dalle detenute, che accomuna tra l'altro sia il femminile che il maschile, anche se pare che il femminile sia in condizioni migliori e che l'acqua ci sia un po' di più, ma insomma è un dato che accomuna entrambe le sezioni. Il femminile spesso viene detto che è in condizioni migliori, ma sostanzialmente perché ci sono meno persone, quindi la vivibilità aumenta. Anche qua si diceva fuori dai microfoni, questa è anche una narrazione un po' così, spesso anche voluta, però si entrerebbe in un discorso anche lungo e complesso sul come le donne spesso gli si affibbia anche il carattere più docile, più buono, più mansueto, e quindi si dipinge il carcere femminile come in fondo più vivibile, perché le donne si sa che sono più carine. Altri dati, che sono i dati invece questi del 2023, perché anche qua i dati sono molto difficili da incrociare tra loro, molti sono sbagliati, quindi abbiamo dovuto lottare per ottenere dei dati che ci sono sembrati plausibili, anche se purtroppo non abbiamo certezza. Comunque nel 2023 ci sono stati 27 suicidi a Sollicciano e 1800 aggressioni da agenti vengono riportate ufficialmente. E invece da gennaio a luglio del 2024, quindi nei primi 7 mesi dell'anno, ci sono stati 35 tentativi di suicidio. Questi chiaramente sono dati ufficiali, chissà la realtà. 215 atti di autolesionismo, anche qui io tenderei di mio a raddoppiare, ma vabbè. 80 aggressioni al personale di polizia penitenziaria e 17 proteste, anche qui boh, vediamo se chissà che dato è. E 4 morti nel 2025. In realtà se ne contano generalmente 5, perché ce n'è stato uno proprio alla fine del 2024, quindi si tende a dire 5 morti finora nel 2025 a Sollicciano. Ancora dati che però potrebbero essere interessanti per capire un po' la specificità di Sollicciano è che il 20% dei detenuti circa è in attesa di giudizio, quindi quell'ala che vi dicevamo essere anche la più problematica è molto popolata. Sono 13 le sezioni in totale, 5 penali dedicate ai definitivi e 8 giudiziari, vi dicevamo, quella considerata più complicata. Per ogni blocco ci sono una quarantina di detenuti. La sesta sezione, dopo la rivolta di luglio del 2024 di cui vi parleremo a breve, è ancora inagibile, quindi è quella famosa ala di cui vi dicevamo, quella non si deve contare tra i posti disponibili. Un'altra ala invece è usata come cuscinetto per trasferirci detenuti dalle celle sottoposte al lavoro di manutenzione, perché ciclicamente alcune celle vengono, alcune ale cadono letteralmente a pezzi, vengono chiuse dichiarando che ci si fanno i lavori di manutenzione, molto spesso questi lavori non vengono mai fatti e i detenuti vengono spostati in quest'altra ala un po' cuscinetto. Ci sono 2 cucine a Sollicciano di cui una è agibile e l'altra no. No, per farvi un attimo il quadro. A questo punto io direi che dopo questi ottimi dati ci manca ancora mezz'ora di Ponte Radio in cui possiamo fare una cronistoria dell'ultimo anno. Sì, allora proviamoci. Dai, le cose sono veramente tante, sì, quindi proviamo, vabbè, ora, sarà difficile per noi. Allora, iniziamo appunto con forse il diciamo l'evento scatenante, forse come premessa, è la relazione fatta dal presidente della Corte d'Appello di Firenze Nencini nel 2023, se non 4 sbaglio, gennaio, 24, l'inizio 24 proprio. Che accese diciamo l'attenzione sul carcere di Sollicciano in senso proprio mainstream. Ci furono molti articoli di giornali su quell'anno che fondamentalmente riportavano le condizioni del carcere che, come dicevamo, insomma, in verità andavano avanti da molto tempo, però questo documento mise formalmente nero su bianco, espose nero su bianco insomma le condizioni del carcere e iniziò a esserci una discreta attenzione. Questa attenzione purtroppo si è verificata, cioè si è confermata 6 mesi dopo, tra il 4 e il 5 luglio quindi dell'estate seguente, con la morte di Fedi Ben Sassi, un ragazzo tunisino di circa 20 anni, per suicidio. Sì, diciamo, ora tu sei passato subito. No, cercavo appunto di condensare perché veramente c'è veramente una quantità di, cioè sono successe veramente un sacco di cose. Sì, cioè, nel frattempo quello che è successo sostanzialmente è stato quello che dicevi, cioè effettivamente c'è cioè una denuncia che peraltro c'era anche prima, ma insomma è arrivata un po' al pettine di delle condizioni e un susseguirsi di suicidi, autolesionismo e proteste da parte dei detenuti, perché lo sappiamo che l'autolesionismo molto spesso è l'unica forma di protesta possibile e quindi da lì in realtà sì, cioè ci sono stati un po' di tentativi blandi e finiti sui giornali di ok interveniamo, e le soluzioni erano spesso di, per esempio, di diminuire la popolazione carceraria cercando di scegliere percorsi terapeutici alternativi al carcere, oppure così diciamo lamentazioni generiche, sì. E che però poi di fondo avevano il senso di dire no, no, ma noi sappiamo quali sarebbero le soluzioni, certo, se poi lo Stato non le mette in atto è perché sono cattivi loro. E quindi i politici locali tendenzialmente avevano un po' sbolognato la palla allo Stato. Infatti leggevo anche che diversi detenuti provano a ricorrere alle richieste di sconto di pena tramite appunto le proprie assistenze legali per le condizioni inumane, proprio perché ormai mediaticamente era stata esposta questa situazione che, appunto, che di cui ora non stiamo a rifare la lista, che comprendeva però proprio condizioni sanitarie invivibili, dall'acqua ai topi, l'umidità, la sporcizia, tutte quelle cose che abbiamo detto prima. Però non è che non c'erano, c'erano sempre state, però chiaramente cosa significa? Al momento in cui mediaticamente vengono fuori, a quel punto entra anche in l'impossibilità di negarle per la macchina giudiziaria, anche se poi non se ne prende la responsabilità, però nell'impossibilità di negarle, allora sì, no? Si cerca, sì, di andare nella direzione di trovare delle scappatoie, diciamo. Approfondiamola, infatti, questa, perché è una cosa, esatto, che secondo me fa comodo anche a chi sta in carcere cercare di capire bene come funziona. Allora, secondo me infatti c'è un altro, diciamo, avvenimento, un'altra premessa velocissima da fare, è che nel 2013 tutta l'Italia è stata fondamentalmente condannata per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, che fondamentalmente costrinse l'Italia a avere un aggiornamento del suo piano legislativo e di alcune figure, tra cui il garante dei detenuti di cui parlavamo prima. Quindi venne istituito con la sentenza Torreggiani del 2013. Insieme a appunto a questa figura vengono anche cambiata fondamentalmente la legislazione che permette, cioè che fondamentalmente non è che permette, apre la possibilità per a sconti di pena quando si realizzano le condizioni di invivibilità o disumanità di cui appunto si parlava prima. Sì, perché il reato è l'articolo parla di tortura, esatto, e trattamenti inumani e degradanti. Inumani e degradanti. Possono accedere quindi a uno sconto di pena pari a un giorno di detenzione, pari a ogni 10 giorni trascorsi in carcere, e diciamo sotto questo ombrello, come dicevamo, 7 persone sono riuscite a ricevere uno sconto di pena al carcere di Sollicciano. La persona che ha ricevuto lo sconto maggiore è riuscita a ottenere 312 giorni, 9 anni, per dare un'idea di questi sconti. Un altro dettaglio importante, secondo me, da far notare è che quindi questi ricorsi sono stati possibili dopo un ammonimento delle violazioni di tutta Italia, insomma, quindi che si ritrovava molto indietro su quello che riguardava il diritto carcerario, ma anche che questi ricorsi sono stati possibili grazie all'intervento di associazioni territoriali. Sì. Non per gli stessi garanti o non per le stesse relazioni del Ministero della Giustizia, sono state proprio, cioè, quindi è necessaria, è l'unico modo di base, una proattività, ma infatti sì, per fare questi ricorsi ci si può rivolgere al proprio avvocato o avvocata se insomma se avete un buon rapporto, oppure all'associazione, per esempio, per quanto riguarda Sollicciano, l'associazione Altro Diritto, sì, che si occupa di seguirvi su questa pratica. Quindi è una pratica che, tra l'altro, reclami tra l'autunno del 2024 e febbraio del 2025, quindi in quasi un anno, sono arrivati circa 120 reclami e sono stati quasi sempre accolti, non sempre, lo vedremo, però quasi sempre accolti. E in teoria il tribunale, oltre a fare uno sconto di pena o comunque a ordinare dei risarcimenti a chi faceva domanda, ha anche ordinato che le celle venissero sistemate. Quindi, cioè, oltre a dire vabbè vi risarciamo, il tribunale ha detto anche come il carcere doveva intervenire. ma quello che è successo veramente è che molto spesso chi faceva reclamo veniva semplicemente trasferito in altri carceri, quindi con anche problemi, perché chiaramente tu magari la famiglia ce l'hai qui e venir trasferita, e questo è anche un deterrente per impedire alle persone di fare reclamo, perché in teoria non è automatico che se tu fai reclamo vieni trasferito, non dovrebbe, ma spesso è stato usato come deterrente per evitare di farti fare. Ora questa possibilità è stata tolta, cioè nel senso è stato, siccome ci si è resi conto che questa cosa era problematica e che veniva usata, abusata, l'arma del trasferimento, è stato imposto, cioè è stato deciso di non fare più trasferimenti. Quindi sì, dai, proviamo invece a ritornare per dirvi sulla cosa del una cosa che però invece ci tengo a dire, che è vero che molti ricorsi sono stati accolti, ma alcuni sono stati rigettati con motivazioni ottime. È famoso, è finito sui giornali il caso di un ricorso rigettato dal giudice perché lì, parafrasando, ma il senso era molto chiaro, l'acqua calda d'inverno non è prevista, non siate mica in albergo, andate dove pensate di essere, all'Holiday Inn. Il magistrato in teoria, parliamo anche delle responsabilità dei magistrati, il magistrato in teoria dovrebbe andare in carcere a vedere quando gli arrivano questi ricorsi, non ci vanno praticamente mai e vengono fatti da casa sostanzialmente comodamente. O a sua volta appunto da sempre quelle figure preposte, che però cioè è assurdo come espongano un problema formalmente per il loro ruolo e in un certo senso assolvono l'azione proprio esecutiva, quindi di chi dovrebbe gestire o migliorare o, questo rientra in quel gioco di scatole cinesi che è, che è volutamente che va a costruire il tutto il meccanismo, cioè, sì, meccanismo è giudiziario, leggere tutti quei dati e vedere l'origine di quei dati, cioè il Ministero della Giustizia, ma il garante, che lo sai, non è che non lo sai, ma senza arrivare a essere appunto anarco-insurrezionalisti, basta semplicemente appunto come dici te leggere una fonte, leggere una, quindi anche senza avere un'idea propria magari estrema, certo, sul carcere, basta leggere una fonte, un dato per capire il meccanismo che ci sta dietro, quindi quello di cui parlava lui dell'interessamento della popolazione, perché poi piccola chiosa, però parliamoci chiaro, se la situazione è così, sì, è anche perché c'è un totale disinteresse, certo, a parte di chi ha interessi personali della persona, della famiglia in carcere, allora si deve attivare, si deve sbattere e magari, no, va in una direzione di riuscire a capire qualcosa, ma se no, oppure fa parte di un comitato, oppure gli interessa per motivi che appunto, purtroppo a Firenze sono sempre meno, e poi movimento anticarcerario fiorentino, esatto, poca roba purtroppo. Faremo una chiosa, però di base, ecco, più si va avanti, soprattutto in questo 2024, in questo 2024 che si sta citando, e più la situazione diventa problematica e diventa anche un po' un punto di non ritorno. Abbiamo circa un quarto d'ora per concludere questa puntata, quindi continueremo questa piccola cronistoria. Il 14, eravamo rimasti più o meno qui, il 14 febbraio del 2024, quindi inizio del 2024, un'altra morte, muore Ghafur Hassani a Careggi, quindi all'ospedale, dopo aver perso conoscenza in carcere. È fantastico perché sui giornali si parla di giallo. Non penso ci sia niente di giallo, è tutto abbastanza chiaro. In una lettera ai familiari aveva denunciato percosse dai secondini e il 31 gennaio entra in coma in cella e viene portato in ospedale e muore il 14 febbraio. Continuano nei mesi a venire aggressioni, sequestri alle guardie penitenziarie, questo per dire che il quadro si stava chiaramente esasperando. Si inizia a parlare sui giornali fiorentini di abbattimento del carcere di Sollicciano e di dismissione, cosa che a noi ha colpito non poco, perché in genere siamo noi quelli che diciamo che i carceri vanno abbattuti. Ecco, in realtà loro iniziano a dirlo, ma ovviamente la prospettiva è ben diversa e non hanno mai chiarito, i politici, i vari giornalisti o chi ne parlava, diciamo, del tutto l'apparato mainstream, come questa cosa doveva avvenire. Era molto evidente che si parlava di una roba tendenzialmente irrealistica, ma Quindi come si fa? Perché tutti i detenuti che stanno lì dentro, che gli si fa? Si ammazzano? Li buttiamo in un dirupo? Non era chiaro, quindi sembravano tendenzialmente parole buttate al vento. Si inizia a parlare, il garante per esempio dei detenuti inizia a parlare di una struttura che va costruita, una struttura del tutto nuova, che coniughi la detenzione con spazi rieducativi seri, con laboratori, piccole fabbriche, luoghi formativi, insomma, il solito sogno di un carcere più umano. E quindi questa cosa viene iniziata a buttare lì, a dire il vero, abbastanza buttata là, non c'è mai stato un progetto di nessun tipo. E si arriva a luglio del 2024, come dicevi prima, al suicidio di Ben. Anche lui aveva fatto ricorso per trattamento inumano, peraltro. E all'indomani di questo suicidio, lui era una persona molto conosciuta e anche a La cui popolazione si carceraria. voleva bene, a quanto ci raccontano anche gli operatori che sono riusciti a entrare a Sollicciano. All'indomani avviene questa rivolta, e rivolta che dura un bel po'. Anche un eco abbastanza importante, finalmente si riescono anche a fare dei presidi davanti, quindi coinvolge sì il carcere più che altro, e sono più che altro i detenuti a mettersi in gioco, ma anche da fuori finalmente si prova a fare qualcosa. Chiariamoci, c'è chi fa qualcosa tutto l'anno per il carcere, però ecco, diciamo che quella è stata un'occasione in cui ci siamo accorti di più che qualcosa andava fatto. E poi la rivolta viene sedata malamente, con la violenza come sempre, e più di 80 persone detenute vengono trasferite in altri carceri, con trasferimenti punitivi ovviamente. E però quello che rimane è anche una sezione. Alcune sezioni dell'istituto, come vi dicevamo prima, dichiarate inagibili perché magari incendiate, e quindi oltre a far stare la popolazione carceraria dentro ancora in mezzo al fumo per tanti giorni, poi sbattuti in isolamento, poi trasferiti, e poi quelle sezioni vengono dichiarate inagibili e tuttora lo sono. Poi inizia da quel punto, corro perché siamo come sempre in ritardo. Inizia questo iter bizzarro, particolarità un po' di Sollicciano, perché alla direttrice del carcere di quel momento, che era Antonella Tuoni, viene ridotto lo stipendio dal DAP, perché viene fatta una sanzione come sanzione, perché il DAP la incolpa della situazione in cui versa il carcere sostanzialmente, e le intima di trovare rimedio entro 90 giorni, che fa abbastanza ridere il pensare che una situazione del genere, anche pur non volendo discolpare la direttrice, però pensare di poterla risolvere in 90 giorni è Vabbè, qualche bizzarro. testa deve cadere e sarà la sua. Chiaramente. Tra le disposizioni del DAP ce n'erano alcune piuttosto rilevanti, come per esempio quella di rendere di nuovo agibili i corridoi, le celle, i locali comuni, la stanza dei colloqui telefonici che erano anneriti a seguito degli incendi, e c'era anche quella di bonificare gli ambienti di lavoro, soprattutto le pareti e le scale delle sezioni detentive del reparto giudiziario, descritte come molto sporche, con macchie apparentemente di sangue, e di sistemare le infiltrazioni di umidità e muffe nell'impianto elettrico. Inoltre, di incrementare il numero degli addetti al primo soccorso e addetti antincendio per ogni turno di servizio. Il carcere di Sollicciano, insomma, a detta del DAB, avrebbe bisogno da anni di grossi lavori di ristrutturazione e risanamento, che però, qui si entra nel gioco dei rimpalli, sono fermi per errori e rimpalli di competenze, sostanzialmente. A quel punto la direttrice Tuoni controbatte dicendo che qui servono interventi strutturali dove il carcere, su cui il carcere aveva margini molto limitati, soprattutto da un punto di vista di soldi, tanto è sempre lì che dicono, e che quindi non aveva soldi da spendere, non si poteva. Quindi, che fa? Nel novembre del 2023, nel 24, si mette in malattia e ci resta fino allo scadere dell'incarico, che è a gennaio. Quindi questa si mette in malattia per 3 mesi sostanzialmente, e buona. La direttrice Antonella Tuoni non viene rinnovata allo scadere del mandato, il DAP doveva pubblicare un bando e assegnare l'incarico a qualcun altro. Nel frattempo le funzioni amministrative vengono svolte da tre diverse persone, che sono le due vice direttrici, e per un giorno a settimana il direttore del carcere di Livorno, Giuseppe Renna. Questo per dire che in quei mesi il carcere, che già era nelle condizioni che dicevamo, era ancora più, la vivibilità di quel carcere è stata resa ancora più difficile dalla mancanza di un direttore, non perché noi invochiamo la guida di una persona di un ruolo, che con un ruolo di guida, ma perché di fatto tutto è molto più faraginoso. Le famose domandine, che di fatto ti permettono a chi vive in carcere di strappare qualche piccolo miglioramento delle proprie condizioni, se non c'hai un direttore a cui farlo, comunque il meccanismo ti viene reso molto più difficile, rende tutto ancora più invivibile. A gennaio del 2025, quindi all'inizio di quest'anno, un suicidio di un 25enne di nazionalità egiziana, che si è impiccato, aveva poco meno di 26 anni, e 10 giorni prima si era suicidato un altro detenuto di 28 anni. La lunga scia delle morti continua, perché il 15 febbraio un altro detenuto di 39 anni si impicca nel bagno della cella, e poche ore prima un altro detenuto si era suicidato con il gas. Questo invece però era successo a Prato, quindi questo fece di nuovo arrivare sui giornali la questione, perché tra il carcere di Prato e quello di Sollicciano in poche ore saranno ammazzate due persone. A febbraio i lavori per sistemare le facciate, attenzione, non gli interni degli edifici, vengono dichiarati fermi per complicazioni burocratiche. A marzo una nuova morte per overdose, e da lì si ricomincia a chiedere, a sollecitare azione, e si ricomincia a parlare di chiudere Sollicciano e ristrutturarlo completamente. La relazione di Antigone, che ricordiamo è un'associazione a garanzia dei diritti, soprattutto in campo penale, insieme a Medicina Democratica, hanno fatto una relazione che viene fatta tutti gli anni su ogni carcere. La relazione è impietosa, non ve la leggiamo perché parla delle cose di cui vi abbiamo già raccontato, ma è veramente dettagliata e assolutamente impietosa. E tutto questo, quindi, come si diceva, è molto sotto la luce dei riflettori. A maggio del 2025, siccome, non abbiamo detto, la direttrice aveva fatto ricorso al TAR per la famosa sanzione che aveva ricevuto, il TAR dà ragione alla direttrice. Le carenze vanno oltre le responsabilità della direttrice, necessitavano interventi straordinari di manutenzione, competenze che erano specifiche del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e del Ministero della Giustizia. Ora qua siamo chiare, le responsabilità sono di tutti e di tutte, quindi la direttrice, secondo il mio modesto avviso, non si possa sentire discolpata. E il 4 luglio del 2025, quindi pochi giorni fa, l'ultima morte a Sollicciano, Eric Michael Rasbornik, di 57 anni, nazionalità austriaca, muore per un malore dovuto al caldo, pare. Questa cosa abbastanza emblematica di come si vive a Sollicciano in questi giorni. Di fatto il carcere di Sollicciano è pieno di persone malate, chi per disagio psichico, chi per tossicodipendenze, chi per altre malattie invece fisiche, che non vengono assolutamente curate. Tendenzialmente quello che succede in tutte le carceri è che ti si danno antipsicotici e psicofarmaci per tenerti buono, al massimo ti si danno tachipirina per qualsiasi cosa. E quindi la salute è un diritto assolutamente che non esiste in carcere. Quindi niente, questa è un po' l'ultima morte, tra l'altro abbastanza esemplare, perché era una persona che non aveva dimora, che viveva per strada a Firenze, che a un certo punto ha di fatto sbroccato, è stata, invece che prendersi cura di una persona che palesemente aveva un grosso disagio, non si sapeva che farne, è stata sbattuta a Sollicciano ed è morta pochi giorni dopo. Sì, ci sarebbe poi da fare, siamo di corsissima e in questa occasione non abbiamo tempo, però magari poi faremo altri approfondimenti anche all'interno delle altre trasmissioni sul carcere, soprattutto anche sul rapporto appunto tra il carcere e le malattie psichiatriche, perché è un legame piuttosto, piuttosto stretto, e soprattutto è un legame piuttosto stretto anche a livello di lotte dall'esterno, perché nella nostra esperienza una delle parti forse che abbiamo più affrontato negli ultimi 15 anni sono state quelle proprio delle lotte per gli istituti psichiatrici carcerari, come quello di Montelupo, che era strettamente legato, però che è strettamente legato al sistema carcerario, e dove avvengono torture, dove avvengono trattamenti estremi. Ora, questa è una piccola chiosa solo per dire che c'è anche tutto quest'altro aspetto da affrontare, che non viene assolutamente affrontato se non in qualche smantellamento, in qualche così soluzione temporanea, e c'è invece tutta una parte di compagni e di compagni che si sono occupati invece di fare questa lotta per molti anni, e di cui magari appunto approfondiremo e parleremo più avanti in altre occasioni. Sì, giusto in chiusura, così a chiosa quasi ironica, il sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro è intervenuto, perché proprio doveva, riguardo di Sollicciano. Ha detto, ha ammesso che effettivamente, un'intervista dell'aprile del 2025, ha ammesso che effettivamente Sollicciano è uno dei peggiori penitenziari d'Italia, che da anni combatte con problemi strutturali, non mi sembra che combatta molto, ma insomma, così, e falliti i tentativi di risanamento, così ci dice Andrea Del Mastro, non si capisce bene cosa vuol dire, che vuol dire falliti i tentativi di risanamento. E, situazione tragica, e di base quello che dice è che si continua sulla strada di provare a appaltare ad aziende interventi di ristrutturazione che, come abbiamo visto, non solo non risolverebbero, ma in ogni caso sono fermi. Si parla di milioni spesi per solo, ad esempio, 7,5 milioni di euro soltanto per la parte di impiantistica, per mettere le docce in ogni cella e per qualcos'altro, cosa che però attualmente è ferma, non sta solo nella testa di Del Mastro, credo sinceramente. E quindi, come dire, Sollicciano attualmente, a un anno di distanza dalle rivolte di luglio del 2024, è in una situazione se non uguale, forse anche peggiore. Non si è mosso sostanzialmente niente, sia fatto un gran parlare, perché molto spesso ci diciamo che del carcere non si parla. Ecco, a questo giro se n'è pure parlato. Peccato che tendenzialmente a sproposito, e per fare grandi dichiarazioni che però non hanno portato a nulla. E anche le dichiarazioni del abbattiamo Sollicciano, fatte per esempio anche da entrambi i sindaci, l'ex sindaco di Firenze e quello attuale, che battiamo per ricostruirlo ovviamente, ovviamente non se ne parla, in caso, però comunque per ricostruirlo, anche queste dichiarazioni abbastanza al vento, e che non si capirebbe, c'è chi parla addirittura di container o di soluzioni che, come dicevamo prima, se tanto va bene buttarli tutti in un calderone, ma perché no, ma facciamo un container e buttiamoceli tutti dentro. Quindi insomma, il dibattito attualmente è misero e sconfortante. D'altronde, se vi dovevamo parlare di Sollicciano, avevamo messo le mani avanti, non potevamo parlarne che malissimo, e questa purtroppo è la situazione. Non ci resta lo spazio, e non del resto non sarebbe stato anche troppo lungo. Ci sarebbe piaciuto chiudere con una nota vagamente speranzosa, per esempio su riflessioni che possono riguardare ad esempio la giustizia trasformativa, un qualcosa di cui si inizia finalmente a parlare negli ultimi anni, perché effettivamente fino a pochi anni fa, almeno in Europa, non si poteva, era un argomento tabù il carcere, nel senso che non esisteva nessuna alternativa contemplata al carcere, e sembrava che ai mali del mondo non ci fosse soluzione se non con il carcere. Non solo, ma anche la repressione per chi si attivava poi in lotte anticarcerarie era ed è molto forte, sempre più forte, no? È chiaro, e quindi adesso però invece incredibilmente non è che sia cambiato tutto, però anzi per niente, ma si inizia finalmente a parlare almeno in certi contesti, in certi ambienti, anche universitari per esempio, anche accademici, cosa che prima non accadeva, di giustizia trasformativa, quindi di un approccio alle questioni anche di risoluzione di conflitti e di violenze diverso, radicalmente diverso, e quindi purtroppo non abbiamo lo spazio per aggiungere questa nota un po' speranzosa, la lasceremo magari a un approfondimento di qualche altra puntata, magari proprio del Ponte Radio, chi lo sa. Giusto, appunto, in super chiusura è giusto citare che comunque la città di Firenze ha avuto, appunto, oltre a cittadini che si sono attivati nei comitati o così, che hanno contribuito per molti anni, ora non so a che punto sta perché l'ho perso un po' di vista, però per molti anni ha avuto questo un collettivo, si chiamava Dentro e Fuori le Mura, un'assemblea che a momenti è stata anche ampia, che si adoperava per riuscire ad aiutare i contatti tra i familiari e i detenuti, e che aveva anche contatti all'interno con i detenuti. Ora non so in cosa si sia trasformata. È finito il tempo a nostra disposizione, l'impietoso orologio del Ponte Radio ci dice che dobbiamo chiudere, e quindi vi diamo appuntamento col Ponte Radio a venerdì prossimo, quindi rimanete in ascolto però anche di Radio Wombat o delle altre radio. Grazie a tutte e Wombat. Tutti. Ciao.